Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Oltre 150.000 occupati in più ad aprile e scendono disoccupazione generale e giovanile. L'OCSE commenta la riforma del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, miglioramento drastico. Riflettori puntati sul dopo Blatter. All'indomani delle dimissioni del capo della FIFA, il presidente della FIGC Tavecchio chiede che la riforma del calcio sia scritta da altri. Il ragazzo morto in gita a Milano, tra poco sarà nostro ospite il padre di Domenico Maurantonio, lancerà un nuovo appello ai compagni perché parlino. Rissa a Roma, in tre inseguono un cittadino romeno gridandogli di andare fuori dall'Italia e poi gli tagliano due dita, si tratterebbe di appartenenti all'estrema destra. Questo sito si avvale di cookie. Da due giorni vige la nuova normativa sulla privacy per la navigazione in internet. Tra le perplessità degli utenti e una petizione per far cancellare questa normativa già partita. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it, durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666 e se volete potete lasciare anche un commento sulla nostra pagina sul sito di Radio 24, www.radio24.it. In apertura dunque parliamo di disoccupazione perché questa mattina sono arrivati i dati dall'Istat. Il calo degli occupati di febbraio e marzo aveva fatto preoccupare, anche perché era arrivato proprio mentre partivano le novità sul lavoro messe in campo dal governo. Gli sgravi per le aziende che assumono a tempo indeterminato, entrati in vigore a gennaio, e il contratto a tutele crescenti il 7 marzo. Ad aprile l'inversione di tendenza certificata dall'Istat, con il dato sul mercato del lavoro che fa ben sperare. 159.000 occupati in più in un solo mese, cioè più 0,7% rispetto a marzo e più 1,2% ad aprile 2014. Il tasso di occupazione sale così al 56,1%, quello di disoccupazione scende al 12,4%, il che si traduce in 40.000 disoccupati in meno in un mese, ma il numero complessivo dei senza lavoro resta sempre sopra quota 3 milioni. Significativi i primi tre mesi dell'anno in cui si combinano quindi incentivi alle imprese Jobs Act. A gennaio-marzo la disoccupazione mostra il primo calo dal terzo trimestre 2011. Importante il dato sui giovani tra i 15 e i 24 anni, più 51.000 occupati rispetto a marzo, più 5,7%, con il tasso di disoccupazione diminuito di 1,6 punti al 40,9%, ma circa un giovane su 10 resta comunque disoccupato. Positivo il commento dell'OCSE: il Jobs Act può migliorare drasticamente il mercato del lavoro, ma la disoccupazione resterà alta, spiega l'organizzazione parigina. Il tasso dei senza lavoro stimato per quest'anno è del 12,7%, come nel 2014, mentre nel 2016 dovrebbe scendere al 12,1%. Livia Zancanelli, Nera, Radio 24, il Sole 24 Ore. Abbiamo 159.000 occupati in più in aprile, primo mese pieno di Jobs Act, avanti tutta su riforme ancora più decisi. Il premier Matteo Renzi commenta subito con un tweet i dati Istat sull'occupazione, motivo in più a suo dire per proseguire ancora più determinati con l'azione di governo. Stesso concetto quello espresso dal ministro del lavoro. Sono dati positivi, dice Poletti, ma devono essere stabilizzati nel tempo, insomma uno stimolo per andare avanti sulla strada intrapresa. L'Italia è ripartita, afferma infine in una nota il responsabile economia e lavoro del PD Filippo Taddei. Prudenza invece la invoca il presidente di Confindustria Squinzi. Il calo della disoccupazione nell'ultimo mese registrato dall'Istat, dice, è sicuramente un segnale positivo, ma va confermato in periodi più lunghi. Poco da rallegrarsi, dice infine il capogruppo dei deputati di Forza Italia Brunetta. L'occupazione sale, ma si tratta di mera redistribuzione, non di nuovi posti creati, e in ogni caso il gap che ci divide dalle locomotive europee rimane elevato. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per restare in ambito economico, siamo alle trattative sulla Grecia che proseguono con la proposta dei creditori che dovrebbe arrivare oggi, mentre Atene ha presentato la sua. I segnali ci sono e questa sera, quando Tsipras incontrerà Juncker, che non sarà solo ma affiancato dal presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem e rappresentanti della BCE e del Fondo Monetario, molti nodi potrebbero già essere stati sciolti. Per esempio il capitolo surplus primario. Atene aveva fermato l'asticella allo 0,8% per l'anno in corso. I creditori chiedevano scendevano oltre un punto percentuale. Secondo indiscrezioni, i creditori avrebbero abbassato l'obiettivo. Il prezzo di questa apertura sarebbe un taglio alla spesa pubblica pari a 3,6 miliardi di euro per quest'anno. Ma i creditori chiedono anche un taglio alle pensioni, taglio della tredicesima, riforma del mercato del lavoro e abolizione di privilegi per alcune categorie. E su questi capitoli non è detto che il premier ellenico abbia in tasca il via libera del suo partito. La minoranza di Siriza preme per il rifiuto di qualsiasi ultimatum. La prossima scadenza per Atene è venerdì, 300 milioni da restituire a Washington. Vero è che l'esecutivo potrebbe chiedere l'accorpamento di tutte le scadenze, ma il problema rimane: senza accordo con i creditori, la Grecia resta a corto di liquidità. Ammesso pure che si trovi un'intesa, la crescita del paese resterà debole, afferma l'Ocse. Ma l'uscita dall'euro non è sul tavolo, ripete il ministro delle finanze spagnolo De Guindos. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle polemiche post elezioni regionali. Passate le elezioni regionali, nel Partito Democratico restano le tensioni fra Renzi e la minoranza interna, mentre arriva in tribunale lo scontro fra Vincenzo De Luca e Rosi Bindi. Come annunciato, infatti, il neogovernatore della Campania ha querelato per diffamazione la presidente della Commissione Antimafia, anche lei esponente del PD, per averlo inserito nella lista dei cosiddetti impresentabili, una denuncia bollata come strumentale e priva di fondamento dalla diretta interessata. Sulla vicenda, ma anche sul caso Liguria, si prepara una resa dei conti nella direzione del partito, convocata per lunedì. Il PD va ricostruito, l'idea di un partito della nazione è superata, afferma nel frattempo in un'intervista il ministro della giustizia Orlando. Nelle regionali abbiamo tenuto, ma metà degli elettori è rimasta a casa, aggiunge poi l'esponente democratico, secondo il quale il risultato delle europee è stato sopravvalutato. Sul caso degli impresentabili interviene intanto anche il presidente dell'autorità anticorruzione, Cantone, che giudica un passo falso quello della Bindi. Quanto all'impasse giuridica sull'applicazione della legge Severino nei confronti di De Luca, l'ex magistrato sostiene invece che il neogovernatore verrà sospeso soltanto dopo la sua entrata in carica, quindi dopo la nomina della nuova giunta. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo al caso Blatter. All'indomani delle dimissioni si guarda tanto alle ripercussioni quanto al futuro. Sul futuro interviene anche il presidente della FIGC Tavecchio, che dice alla fine della bufera che ha travolto la FIFA ci sono i mondiali in Qatar, a decidere sarà l'esecutivo che andrà a costituirsi. Dice sarebbe anacronistico che chi ha dato le dimissioni per motivi del genere possa e debba riscrivere le regole, perché il rischio, Marco Bellinazzo del Sole 24, buongiorno. Ciao, buongiorno. È esattamente questo, che sia proprio Blatter a mettere le mani nelle regole della FIFA e forse anche nell'elezione del suo successore. Infatti, attenzione a dare per morto politicamente e sportivamente Blatter, il cui regno va ben oltre 17 anni, per i quali è stato, diciamo, accusato di aver creato una sorta di dittatura, a questo punto anche affaristica. Di fatto si crea ora una situazione in cui ci sarà un nuovo congresso straordinario tra dicembre 2015 e marzo 2016, in cui sarà scelto il nuovo successore, ma chi scriverà le regole del nuovo congresso straordinario e soprattutto chi sarà in qualche modo a forgiare questo nuovo successore e quali saranno i suoi compiti è tutto da verificare. Al momento sembra essere lo stesso Blatter che si è assunto nelle dichiarazioni di ieri questo ruolo di padre putativo della nuova FIFA e delle riforme che verranno, dicendo che così, dimettendosi, avrà il tempo di lavorare a queste riforme. Naturalmente ci auguriamo che non sia così e che a scrivere le nuove regole di governo del calcio mondiale siano finalmente delle persone nuove, degli uomini nuovi. Il calcio mondiale ha bisogno di nuove regole e 209 federazioni aspettano queste nuove regole da troppo tempo. Grazie intanto a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che ritroveremo a partire dalle 14 in tutti i convocati per commentare con i colleghi che si occupano di sport proprio queste vicende. Noi passiamo all'estero, all'allarme umanitario innanzitutto nella regione di Anbar, al confine con la capitale irachena Baghdad, dopo che i miliziani dello Stato Islamico hanno chiuso le condotte della diga di Ramadi sull'Eufrate, limitando l'afflusso di acqua in alcune località a est est della città. A questo punto c'è allarme proprio per l'afflusso di acqua e il rischio di una crisi umanitaria. Intanto sono 14.000 i profughi siriani ospitati in un campo giordano nel deserto, Azraq. Per lo più vengono dalle zone controllate dallo Stato Islamico. E là è stata la nostra inviata, Valentina Furlanetto, che ha raccolto la testimonianza di una di loro, Zahara, 35 anni, tre figli, di Raqqa. Vengo da Dir es-Sar, una zona rurale vicino a Raqqa, la zona dove vivevamo è sotto il controllo dello Stato Islamico. Io poi ho il cancro, andavo a fare le cure a Damasco, ma poi i collegamenti a causa della guerra si sono interrotti, allora sono scappata in Giordania. Aywa, ana mariz saratan, qadi kint aalej bash-Sham. بعدين داعش منعني ما عاد يخليني اروح على الشام حتى كفي علاجي انا اجيتيش حتى كفي علاجي. Siamo arrivati al confine. Lì abbiamo dovuto aspettare 16 giorni accampati. È stata dura. Avevamo fame, i bambini non ce la facevano più. Poi ce l'abbiamo fatta a passare il confine e siamo arrivati fino a qui. يعني بيشي بين درزر ودمشق والله ما بعرف قديش ابو احمد. La vita qui al campo profughi è dura. Non c'è abbastanza acqua per tutti, manca l'elettricità. Daesh, lo Stato Islamico, fa cose terribili a Raqqa. Picchiano gli uomini, non permettono che fumino, hanno tagliato la testa a molte persone. Io stessa ho visto con i miei occhi al mercato le teste delle persone tagliate. È accaduto 3 mesi fa. Se ho dei sogni, sì, ho grandi sogni. Voglio stare meglio, voglio tornare nel mio paese, voglio riavere la mia casa, voglio avere soldi da spendere, voglio che il mio paese rinasca. E questo era il racconto appunto di Zahara, 35 anni, uno dei 14.000 profughi siriani nel campo profughi giordano di Azraq, raccolto dalla nostra inviata Valentina Furlanetto. Noi restiamo all'estero e passiamo a parlare di Turchia, dove il pubblico ministero turco ha chiesto una condanna all'ergastolo per il direttore del quotidiano di opposizione Cumhuriyet, minacciato dal presidente Erdogan dopo che venerdì aveva pubblicato le immagini di armi destinate proprio a gruppi armati islamici in Siria. E quindi, come vedete, rimaniamo sul tema, a bordo di camion scortati dai servizi segreti turchi. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. In partenza, tra l'altro, per la Turchia andrai venerdì, se non erro. Alberto, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Perché andrai venerdì? Perché la Turchia si prepara a votare e questa notizia che arriva è una notizia che si inserisce anche in questo clima preelettorale. Come dobbiamo valutare questo voto che si avvicina e come dobbiamo valutare questa notizia, Alberto? Beh, la notizia è di una gravità inaudita, evidentemente. Non si può chiedere la condanna per l'ergastolo perché un direttore di un giornale ha pubblicato delle foto, peraltro probabilmente passategli proprio dalla polizia, in contrasto con i servizi segreti che rifornivano e riforniscono di armi i ribelli siriani e anche i jihadisti che combattono in Siria. Ma la notizia è rilevante per 2 motivi. La prima ci dice appunto la situazione della democrazia in Turchia, cioè il fatto che Erdogan abbia già minacciato molte volte la stampa e proprio il giornalista, il direttore di Cumhuriyet, proprio per aver pubblicato queste foto ha detto la pagherai. Mi pare che non sia questo il miglior modo per avvicinare la Turchia all'Unione Europea. Ma questa vicenda dovrebbe preoccupare anche le cancellerie internazionali, che proprio ieri a Parigi hanno detto che vogliono cambiare strategia per la lotta al califfato. Cosa abbastanza impossibile, perché come si vede proprio dal ruolo e dal comportamento della Turchia, molti dei paesi che fanno parte di questa coalizione perseguono interessi nettamente contrapposti. le elezioni. Le elezioni saranno decisive per Erdogan, perché vuole assicurarsi 2/3 dei seggi necessari per cambiare direttamente la Costituzione in senso presidenziale. Chi lo ostacolerà? Molto probabilmente proprio quel partito curdo HDP che, se passerà la soglia del 10%, impedirà al sogno del sultano turco in qualche modo di prendere il potere quasi assoluto. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, del quale nelle prossime ore sentiremo anche le cronache dalla Turchia, tanto sul quotidiano, quanto sul sito, quanto qua su Radio 24. Prima di andare a chiudere, a sentire che cosa succede sulle strade, parliamo di questa benedetta legge sui cookie, qualcosa che avrete visto navigando su internet in questi giorni e che ci sta creando qualche fastidio e sta creando molte perplessità. In questi giorni la rete è tutta un cookie. C is for cookie, that's good enough for me. C is for cookie, that's good enough for me. Niente dolcetti, ai noi neanche quelli del mostro dei Muppets. È tutto un cliccare su banner, finestrelle, informative. È la cookie law, l'amara legge appunto dei biscottini. L'effetto della nuova normativa voluta dal garante della privacy, che impone precise norme per chi utilizza i dati dei visitatori dei siti. I cookie sono piccoli file di testo che un sito invia al browser di chi naviga per poterlo identificare alla visita successiva, per mantenere aperta la sessione su un sito web, ma anche per memorizzare le preferenze dell'utente o fornire contenuti pubblicitari su misura. Contro la legge ora c'è già una petizione, si chiama Blocca il cookie. Per essere in regola, avvertono i promotori, occorrono competenze informatiche o disponibilità economiche che non sono alla portata di tutti. Il banner poi rischia solo di infastidire l'utente, che finisce per dare il consenso senza leggere. La soluzione così si scarica sul webmaster, ma il problema viene risolto senza che nessuno sia veramente informato. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e ci ritroveremo subito dopo, raccontando due vicende di cronaca. La prima riguarda, ve lo annunciavamo già nei titoli, la morte di Domenico Mauro Antonio, il ragazzo precipitato da una finestra dell'hotel mentre era in gita a Milano, era di un liceo di Padova, e parleremo col padre Bruno Mauro Antonio per parlare anche del silenzio che ha caratterizzato questa vicenda, soprattutto da parte dei compagni. E poi ci occuperemo di quello che è successo a Roma, dove, come già vi dicevamo anche nei titoli, c'è stato un uomo, un romeno, inseguito da tre giovani di estrema destra che lo hanno insultato e poi gli hanno tagliato due dita. Ne parleremo col vice sindaco di Roma Luigi Nieri a tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Oltre 150.000 occupati in più ad aprile, scendono disoccupazione generale e giovanile. Riflettori puntati sul dopo Blatter, all'indomani delle dimissioni del capo della FIFA, il presidente della FIGC Civecchio chiede che la riforma del calcio sia scritta da altri. Rissa a Roma, in tre inseguono un cittadino romeno gridandogli di andare fuori dall'Italia e poi gli tagliano due dita. Allora, come sapete, tendiamo a non occuparci mai in maniera particolarmente approfondita di casi di cronaca, salvo nelle vicende nelle quali emerga qualche elemento che ci fa allargare lo sguardo su elementi, se vogliamo, per certi aspetti preoccupanti. In questo caso vogliamo occuparci della vicenda di Domenico Mauro Antonio, un nome che avete sentito nei racconti che vi abbiamo fatto in queste settimane. È quel ragazzo di Padova che, durante una gita a Milano in visita ad Expo insieme alla scuola, è precipitato dalla finestra dell'albergo e ha perso la vita. Ora le indagini vanno avanti, in queste ore le analisi sul DNA ritrovato sul posto dovrebbero arrivare sul tavolo degli inquirenti, e però c'è un punto che attraversa tutta questa vicenda nell'ultimo mese, sostanzialmente da quando è avvenuta, ossia quello che sembra un silenzio dei suoi compagni di classe. Saluto Bruno Mauro Antonio, che è il papà di Domenico Mauro Antonio, e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno signor Bruno. Buongiorno. Ci dice, in questo mese, più di una volta avete lanciato un appello, lei e sua moglie, perché questi ragazzi parlassero, e ancora ieri due di loro, intervistati dal Mattino di Padova, dicono non ne sappiamo nulla, non sappiamo cosa è successo, eppure appare impossibile visto quello che è avvenuto. Sì, io come ho detto mi aspettavo che nell'immediatezza, la settimana successiva alla vicenda, sarebbero subito emerse delle spiegazioni o qualcosa che mi avrebbe fatto capire cosa è successo a mio figlio. Queste versioni, diciamo, del nulla, nessuno era presente, nessuno ha visto, nessuno ha sentito, mi hanno lasciato fin da subito dubbioso, se non esterrefatto. Qualcuno adesso sembra che cominci a dire qualcosa, anche se ancora non è esplicativo. Io spero che agli inquirenti sia stato detto qualcosa, qualche particolare, qualcosa di determinante. Senta, signor Mauro Antonio, io immagino che in questo, si diceva ormai un mese, in questo mese voi abbiate avuto contatti anche con i genitori dei compagni di classe di Domenico, o magari con gli stessi compagni di classe di Domenico, e nemmeno da là è emerso qualcosa? Avete avuto la percezione che ci fosse del non detto? Ma lì abbiamo ricevuto delle visite così di condoglianze, così, ma un po' il momento difficile, di certo non era il luogo o il caso di parlare di elementi specifici che tra l'altro sono oggetto di indagine. Io penso che l'indagine in corso stia fortemente limitando questo aspetto. Come ho detto, io non ho bisogno di avere un contatto che verrebbe normalmente in situazioni diverse, e ho bisogno che chi può collaborare collabori, e quindi in primis con le autorità, e eventualmente c'è anche la possibilità tramite il nostro avvocato. Avete avuto quindi l'impressione, mi sembra di capire, di una sorta di clima di omertà intorno alla vicenda che ha riguardato vostro figlio? Ma omertà non è un termine che io uso, non voglio usare questo termine. Io spero che sia dovuto a aspetti di shock, di psicologici, però come ho sempre detto, io escludo il suicidio, escludo il malore che da solo abbia determinato la caduta di mio figlio. Tutto il resto è possibile, e quindi qualcosa, una spiegazione deve saltare fuori. L'ultima domanda, l'ultimo paio di domande che le volevo fare riguardano semplicemente una sorta di rilancio dell'appello che voi avete fatto più di una volta, appunto, ai compagni di classe di Domenico, perché parlino appunto con la magistratura. Sì, certo, perché come dicevo prima, ci può essere anche da parte di qualcuno un aspetto di shock, un aspetto psicologico di fronte a questo, e posso immaginare, però in questo momento qualsiasi particolare, qualsiasi elemento possa aiutare la magistratura è importante. Quindi se qualcuno può, si faccia coraggio e prende coraggio ora. Perché ancora in questa intervista che citavamo dal Mattino di Padova, questi due compagni dicono nessuno si è accorto di nulla, eppure, insomma, visto poi la situazione che si è ritrovata anche all'interno dell'albergo, sembra decisamente improbabile, se non impossibile. Per quel che so io, sì. Vorrebbe dire che mio figlio avrebbe fatto tutto, si sarebbe anche sentito male o meno, quello non si è ancora capito, bisogna stendere le analisi, tutto in punta di piedi, tutto senza disturbare anche persone che pure potevano avere anche un sonno pesante, ma dire, è un fatto non così facile da cadere. Silenzio. La ringrazio, grazie a Bruno Mauro Antonio, papà di Domenico, e grazie per aver accettato il nostro invito. Le auguro per quanto possibile una buona giornata. Grazie a lei. Adesso vogliamo andare su un'altra storia di cronaca, è una storia che arriva da Roma in queste ore, e quella che inizialmente sembrava una semplice, per così dire, rissa, e che invece si è rivelato qualcosa di più. Che cosa è successo? È successo che un diverbio iniziato davanti a un bar si è concluso con tre giovani italiani che hanno inseguito un cittadino romeno, lo hanno insultato, gli hanno detto vattene fuori dall'Italia. E la cosa si è conclusa col fatto che gli hanno tagliato due dita. E ovviamente aspettiamo le risultanze delle indagini per avere certezza su tutto questo. Detto ciò, forse anche un segnale. Vice sindaco di Roma Luigi Nieri, buongiorno. Buongiorno a voi. È un segnale che un po' di tensione nella capitale dopo quello che è successo in via Mattia Battistini, con quell'inseguimento che si è concluso con la morte di una persona, si respira. Che dice lei? Ma diciamo che quando ci sono gli imprenditori della paura, non solo a Roma ma in questo paese, è probabile che rancore, rabbia, chi fomenta odio è chiaro che poi produce degli effetti devastanti. Adesso vediamo come si svilupperanno le indagini, però è chiaro che c'è un brutto clima in questo paese, ne dobbiamo prendere atto. E in città in particolare? In città, Roma risente di questo clima, non c'è dubbio, risente, insomma sono stati anni dove insomma, la paura del diverso, termini anche molto terribili, clandestini, insomma si è usato anche una terminologia che poi arrivano fino appunto alle ruspe di Salvini, per cui insomma è quel filone culturale di persone che quando sono state al governo, quando sono state alla prova del dover amministrare, hanno prodotto dei danni inenarrabili, perché a Roma per esempio il problema dei campi nomadi esplode proprio quando appunto governa il centrodestra con Alemanno, e al governo nazionale c'è un ministro degli interni leghista, il leghista Marrone. Però Nieri, è vero che è un problema ancora irrisolto? E tant'è che noi ci siamo dati proprio come obiettivo il superamento dei campi Rom, perché quello non è un modo di far vivere sia le persone rom che ci vivono, le famiglie, e anche il resto della città, che appunto non è un modo di vita che crea integrazione, che è quella l'elemento fondamentale per poi far vivere le persone bene insieme, per la coesione sociale di una città. Avete intenzione di presentare un piano, se non ho capito male, sul... nelle prossime settimane presenteremo un piano organico alle forze politiche e alla città, che ovviamente andrà proprio nella direzione, così come ci chiede anche l'Europa, del superamento dei campi rom. E quali saranno le linee guida di questo piano, che immagino abbiate già identificato in linea di massima? Noi abbiamo iniziato già da parecchio tempo nel ricreare una situazione di quel minimo proprio necessario di vita nei campi, per cui riportare alla legalità ambiti dove appunto questo non c'è, e mandando via per esempio persone ricche con redditi molto alti, con proprietà, che non c'è alcun bisogno che siano nei campi assistiti dal comune di Roma. Poi, e questo significa che le persone invece meno abbienti, le persone che hanno bisogno, vengano considerate così come gli altri cittadini romani, che appunto hanno bisogno del sostegno anche alloggiativo da parte dell'amministrazione. Senta, c'è anche un problema di insediamenti irregolari, perché il punto non sono solamente i campi rom regolarmente riconosciuti, no? Ma sono tutti gli insediamenti irregolari, che a volte sono sparsi, sono fatti magari di sole quattro famiglie, e sono quelli che forse più creano tensione all'interno delle comunità, no? Ma complessivamente la vicenda riguarda, dobbiamo saperlo, perché quando parliamo di questo fenomeno parliamo di 7.348 persone in tutta Roma. Tutto questo va governato. Parliamo sempre però di quei numeri che ho detto, per cui questa giunta, quando ha detto col sindaco Marino superiamo i campi Rom, è perché quella politica è stata una politica che non ha prodotto benefici, sì, per nessuno. E appunto è un'assunzione alta di responsabilità su cui coinvolgeremo appunto l'intera città. L'ultima domanda che le voglio fare è sui tempi. Lei ha detto nelle prossime settimane la presentazione del piano. Entro quando intendete e pensate che si possa chiudere? Come ho detto, alcune cose già sono in corso. Sì. Perché appunto ho detto questo fatto che ci sia gente che non ha titolo, nel senso che appunto ha proprietà o ricchezze. Molto, molto semplicemente, mi scusi Nieri, entro l'anno la chiusura di tutti i campi Rom, contate di farcela? No, i tempi saranno dettati da questo piano, che è appunto un piano organico, ha l'ambizione di essere un piano che porta al superamento dei campi Rom, e questo i tempi stanno all'interno del piano. Stanno all'interno del piano, quindi non ci può dare un dettaglio su questo ancora. Comunque, non sono, per capirci, non sono vicende che si risolvano appunto né con le ruspe né con la bacchetta magica, perché sennò già l'avremmo risolta. La ringrazio e grazie a Luigi Nieri, vice sindaco di Roma, per essere stato con noi. Ci fermiamo e ci ritroviamo tra un attimo con la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Oltre 150.000 occupati in più ad aprile, scendono disoccupazione generale e giovanile. L'OCSE commenta la riforma del mercato del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, dicendo il miglioramento è drastico. Riflettori puntati sul dopo Blatter, all'indomani delle dimissioni del capo della FIFA. Il presidente della FIGC Tavecchio chiede che la riforma del calcio sia scritta da altri. Il ragazzo morto in gita a Milano, il padre di Domenico Mauro Antonio, a Effetto Giorno, lo avete sentito poco fa, dice: mi aspettavo che qualche compagno parlasse, è impossibile che nessuno abbia visto o sentito. Rissa a Roma, in tre inseguono un cittadino romeno che, gridandogli di andare fuori dall'Italia, e poi gli tagliano due dita, si tratterebbe di appartenenti all'estrema destra. E la borsa. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. C'è una vicenda sulla quale ci sarà da discutere, da interrogarsi, che arriva da Albenga, dove una donna di 41 anni è stata uccisa dal marito di 52 che l'ha accoltellata. Il punto è che quest'uomo aveva già tentato di strangolarla, siamo nel Savonese, aveva già tentato di strangolarla, era stato arrestato e poi aveva patteggiato la pena ed era stato scarcerato, è tornato da lei e l'ha uccisa. Questo sarà un tema di discussione sicuramente nelle prossime ore. Nel frattempo abbiamo notizia di un altro omicidio di una donna da parte del suo compagno. Omicidio volontario in concorso. È questa l'accusa a carico delle due persone arrestate per la morte di una giovane marocchina ieri ad Albino, nel Bergamasco. Si tratta del marito della 18enne, un 25enne senza fissa dimora e clandestino, e di una 16enne svizzera. La vittima è stata avvicinata ed accoltellata nella tarda serata di ieri lungo la pista ciclopedonale che costeggia il fiume Serio. Inutili i soccorsi del 118. Per la ragazza non c'è stato infatti nulla da fare. All'origine del delitto ci sarebbero motivi passionali. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, una risposta all'ascoltatore che ci scrive in merito al titolo che abbiamo fatto su quello che è avvenuto a Roma, la rissa, le tre persone che hanno inseguito un cittadino romeno gridandogli di andare fuori dall'Italia e poi gli hanno tagliato due dita. Abbiamo detto che si tratterebbe di giovani di estrema destra e questo ci viene contestato, ci dice o si tratta o non si tratta. In realtà il punto è, come abbiamo detto poco fa anche col vice sindaco di Roma Luigi Nieri, è che le indagini sono ancora in corso. Quindi esattamente non sappiamo come sono andati i fatti, sappiamo che cosa hanno detto queste persone, non sappiamo se siano dei giovani legati ad organizzazioni di estrema destra oppure no, e quindi il condizionale, come si dice in questi casi, è d'obbligo. Traffico.